Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane e trasmettiamo da Udine e sulla frequenza dei 90 MHz e il programma andrà avanti fino alle ore 21:30 e partiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale della trasmissione Zardins Magnetics che viene condotta ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30 e condotta intendo che viene curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine e Trieste e come detto stiamo trasmettendo su 90 MHz e se chi volesse farlo può anche insomma sgarfare in rete, ci trova anche comunque in streaming sul sito di Radio Onde Furlane. Bene, abbiamo ascoltato la sigla, ovvero Retribution the Behind Enemy Lines, e adesso andiamo ad ascoltare un 7 pollici molto datato, esattamente 1981, di quest'artista Annie Anxiety, da un'uscita per la Crest Records che si chiamava Buried Wire Halo, Annie Anxiety. Thank you. Mandi a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, stasera abbiamo pensato di iniziare parlando di guerra interna, una guerra appunto esercitata dalle istituzioni dello Stato e degli Stati contro i soggetti non allineati, non obbedienti, che manifestano la loro alterità rispetto al pensiero unico dominante e anche che manifestano la loro conflittualità contro il sistema. Una guerra che viene portata avanti anche grazie al collaborazionismo di tutta una serie di sudditi e anche grazie all'indifferenza di una parte della popolazione. Abbiamo pensato di affrontare questi argomenti con la lettura, proponendovi una lettura di un interessante e preciso articolo di Elisabetta Tegil, compagna della Coordinamenta Femminista e Lesbica di Roma. Buon ascolto. Democratica e Civile Bologna ha lanciato in via sperimentale e su base volontaria la patente del buon cittadino sulla falsariga di quella cinese. Viene chiamata Smart Citizen Wallet e veniamo a sapere che qualcosa di simile sarebbe in procinto di essere lanciato anche a Roma. D'altra parte non dobbiamo meravigliarci. Bologna ha una lunga tradizione consolidata rispetto a provvedimenti di controllo sociale elevato, a cominciare dai sindaci sceriffo come Cofferati, e Roma ha un precedente illustre con Veltroni, sindaco, quando furono affissi per la città dei manifesti comunali con tanto di numero di telefono da chiamare, che invitavano i cittadini alla delazione e alla denuncia di chi imbrattava la città. Per ora il meccanismo della patente del buon cittadino è impostato su base premiale, vale a dire che la persona accumulerà punti e otterrà delle regalie in sconti di vario tipo se avrà dei comportamenti in linea con le richieste dell'amministrazione. Sono considerati comportamenti etici fare la raccolta differenziata dei rifiuti, usare i mezzi pubblici, gestire in maniera oculata il consumo di energia, non prendere multe, essere attivo con la card cultura, una carta varata per le attività culturali nell'area metropolitana di Bologna. Piccola osservazione a margine: la cultura che conta è solo quella ufficiale e istituzionale? Insomma, essere dei cittadini rispettosi del vivere civile e della civile convivenza. Ma il passaggio a bastone e carota sarà breve. La sinistra antagonista dovrebbe entrare in allarme rosso. Il sindaco Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, PD, tanto per non sbagliarsi mai, dice che questo patentino fa parte di un progetto più vasto che intende dare ai cittadini e alle cittadine una grande rete digitalizzata, ma allo stesso tempo personalizzata sull'esperienza di ciascuno. Ci viene in mente il film di Spielberg del 2002, Minority Report, in cui viene descritta la società del futuro e il relativo controllo sociale. In una scena il protagonista, che è Tom Cruise, prende la metropolitana e la metropolitana è piena di pubblicità, ma non di pubblicità qualunque, di pubblicità fatta per lui. Ci sono delle piccole videocamere che riescono a catturare la sua iride, riconoscerlo e dargli dei messaggi fatti apposta e che lo chiamano addirittura per nome. Quella che potrebbe sembrare un'attenzione particolare legata alle esigenze individuali, anche se di stampo pubblicitario e consumistico, è invece nella sostanza controllo sociale. La gente esce dai vagoni del treno e man mano che esce a ciascuno si illuminano gli occhi e in questo modo vengono riconosciuti così. Il protagonista, che sta scappando, verrà trovato dalla polizia. Lo scorso 17 febbraio a Fidenza, in provincia di Parma, il Consiglio Comunale ha deliberato il nuovo regolamento unico comunale in materia di edilizia residenziale pubblica, vale a dire l'edilizia economica per le persone meno abbienti. Nell'articolo 8, titolo 3, parte 2, del predetto regolamento viene introdotto un sistema punti per chi abita le case popolari che istituisce la carta dell'assegnatario, sulla quale ogni nucleo familiare che abita una casa popolare riceve un punteggio iniziale di 50 punti. Attraverso il comportamento dei residenti, il credito può aumentare o diminuire. Nel caso i punti vengano esauriti, i residenti ricevono lo sfratto e devono lasciare l'alloggio. All'interno del regolamento vengono riportate le tabelle dei divieti e degli obblighi legati all'alloggio e agli spazi accessori, entrate in vigore dallo scorso 19 maggio. Tanto per fare degli esempi di divieti: divieto di utilizzo di barbecue e griglie sul balcone, perdita di 10 punti. Divieto di ospitare persone strane al nucleo familiare senza la preventiva autorizzazione del comune e o dell'ente gestore, perdita di 25 punti e multa da 50 euro. Divieto di consumare alcolici negli spazi comuni, perdita di 10 punti. Divieto di distribuire cibo alle popolazioni libere di colombi e volatili in generale, perdita di 10 punti. Vale la pena di leggere veramente il regolamento in questione, con la miriade di obblighi, divieti e penalizzazioni che prevede, perché altrimenti non ci si rende conto fino in fondo di che cosa significhi un posizionamento istituzionale di questo tipo. Oltretutto, l'ente gestore istituisce il servizio di mediazione sociale dei conflitti, al quale si possono rivolgere gli assegnatari avanzando richieste per affrontare e risolvere problemi di convivenza negli edifici. Questo servizio di mediazione, dice sempre il regolamento, interverrà utilizzando le tecniche professionali della mediazione e conciliazione sociale e proponendo soluzioni al fine di agevolare la bonaria composizione dei conflitti insorti. Anche questo è assolutamente in linea con l'impostazione neoliberista della società. I conflitti non sono dovuti a condizioni sociali, economiche, ineguaglianze e povertà, difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena o alla stanchezza di una giornata che non ha mai fine. Sono dovuti all'incapacità dei singoli di rapportarsi fra loro e quindi lo Stato ha il diritto dovere di educarli alla convivenza civile. È noto che le classi subalterne sono naturalmente portate agli schiamazzi, alla violenza, a buttare le cartacce per terra, a mangiare per strada, ad avere atteggiamenti indecorosi. Che diamine! Se comunque ci dovessero essere segnalazioni di comportamenti illeciti, è previsto l'intervento di un agente accertatore, formato da ACER, la società che gestisce gli alloggi popolari in Emilia-Romagna, e al funzionario è assegnata la facoltà di ispezionare gli alloggi e sanzionare i nuclei familiari. Queste modalità sono state sperimentate anche in altri 5 comuni del Parmense: Felino, Salabaganza, Collecchio, Traversetolo, Montechiarugolo. Il tutto supera perfino il controllo sociale partecipativo e delatorio della Germania nazista. La creazione del Green Pass per la gestione della cosiddetta pandemia si è rivelata una prepista ottimale di un progetto però già in agenda da tempo per testare la disponibilità delle persone ad accettare un controllo etico della propria vita, chiaramente sulla scala di valori neoliberista e l'assunzione della delazione come elemento essenziale nei riguardi della partecipazione attiva al modello istituzionale. Vengono in mente dei passaggi di Bamboulet, la sceneggiatura che nel 1971 Ulrike Meinhof aveva scritto per un documentario sulle storie di adolescenti in un riformatorio femminile, tra solitudine e rivolta, dove parlava dell'educazione sorvegliata, vale a dire del meccanismo con cui viene messo in atto un addestramento con punizione e premialità, per cui le ragazze ribelli, devianti, critiche, insofferenti, imparano a rassegnarsi, a non desiderare altro che lavorare tutta la vita, ricevere ordini e tacere. Un addestramento alla normalità attraverso il quale alla lunga il comportamento tenuto sarà interiorizzato e diventerà un'abitudine. I destinatari di questo addestramento erano chiaramente gli strati poveri della popolazione. La socialdemocrazia tedesca era caratterizzata dalla rimozione formale del nazismo e allo stesso tempo dalla riaffermazione senza rotture dei principi di ordine, legalità e sorveglianza. Ora, il neoliberismo ha fatto di più, ha allargato a dismisura gli strati della popolazione a cui è destinato l'addestramento sociale e ha ufficializzato i principi nazisti fondati sullo spartiacque tra chi è dentro e chi è fuori dalla società per bene. Infatti tutto questo viene veicolato dal sistema di potere sempre attraverso nobili motivi. Perché? Al di là dei collaborazionisti e delle collaborazioniste che hanno un interesse personale di carriera ed economico e sono quindi coinvolti nelle sorti del sistema, c'è sempre chi si presta attivamente, chi non si oppone, chi sottovaluta e chi pensa che tutto sommato a lui o a lei non capiterà mai. C'è stato in questi anni un atteggiamento di superficialità, di banalizzazione, di sottovalutazione, se non di palese partecipazione della cosiddetta sinistra di classe, per fortuna non di tutta, a una serie infinita di provvedimenti di controllo varati dai governi neoliberisti. L'elenco sarebbe veramente lungo, ma basta citare il controllo generalizzato del territorio con telecamere in ogni dove, la digitalizzazione dei documenti e degli accessi al lavoro, i provvedimenti di decoro urbano, la demonizzazione degli ultras e della movida, la persecuzione delle affissioni abusive, la pletora di multe e sanzioni amministrative, il DASPO, la sorveglianza speciale, e mi devo fermare perché non saprei dove mettere il punto. Per finire, in bellezza, con l'accettazione del Green Pass, di un lascia passare per vivere e delle relazioni e delle relative sanzioni, multe, costrizioni, ricatti, allontanamento dal lavoro e dalla socialità. È chiaro che questo porterà alla punizione di chiunque avrà l'ardire di manifestare, protestare, di non essere in linea col pensiero propagandato come giusto ed etico, che si tratti della cosiddetta pandemia o del giudizio sulla NATO e sulla guerra in corso in Ucraina, che si tratti di non pagare le bollette o di scrivere sui muri. Oh! E anche ora c'è una sottovalutazione riguardo a questo tipo di operazioni di potere. Siamo di fronte a una fase di ulteriore impoverimento generalizzato delle classi subalterne, propagandato come risultato dell'emergenza pandemica e dell'emergenza dovuta alla questione ucraina, ma in effetti volutamente creato dal capitale in fase di ristrutturazione e allo stesso tempo ad un cambiamento epocale dei rapporti potere subalterni, in cui il neoliberismo intende annullare ogni possibilità di reazione e dissenso e costruire dei soggetti assertivi e consenzienti. In questo frangente, la maggior parte delle manifestazioni di dissenso, poche e rarefatte in verità, sono orientate ed imperniate sul lavoro, sul carovita. Così recita la chiamata dei lavoratori della GKN per lo scorso 26 marzo a Firenze. Dice: vogliamo sconfiggere tutte le delocalizzazioni, rimettere al centro la questione salariale, il caro vita e bollette, la riduzione d'orario a parità di salario, l'abolizione del precariato, rivendicare un polo pubblico per la mobilità sostenibile e rimettere al centro la condizione di lavoratori e lavoratrici incontrati in questi mesi, che siano del settore pubblico privato, di quello industriale o scolastico, di trasporti, sanità, spettacolo, informazione, fissi, precari, in appalto, autonomi, migranti. Ma anche contro la guerra e le spese militari, quasi sempre in maniera general generica o buonista. Tutte cose sacrosante, per carità, ma chi avrà il lavoro? Chi ha il patentino del buon cittadino in regola? E chi avrà la sanità pubblica e gratuita? Tutte? Tutti? O quelli che scrivono sui muri verranno esclusi? E come si potranno ribaltare questi famosi rapporti di forza se quelli che manifesteranno lo faranno senza avvisare i garanti dello sciopero? Perderanno punti? E i figli non avranno più l'accesso a scuola? E chi esprimerà giudizi sulla guerra non in linea con il pensiero unico? Quanti punti perderà? La necessità imprescindibile e portare a sintesi la lotta al modo di procedere del capitale neoliberista. C'è chi lo sta facendo con grande fatica. E intanto stiamo ascoltando questa band inglese, anche questa una band datata, forse si è riformata recentemente, probabilmente per qualche festival inglese dove insomma c'è stata questa ripresa di moltissime band a riformarsi appunto per questi festival. Comunque loro sono gli Omega Tribe, band anarcho-punk londinese, e questo è il loro album, primo loro album datato 1983, che si intitolava No Love Lost. E bene, e comunque come ho detto in sottofondo già precedentemente in tutti gli interventi. Sì, e dopo la lettura appunto di Allarme Rosso di Elisabetta Tegil passiamo a così a proporvi parecchie, perché mi rendo conto che c'è parecchia roba, comunque speriamo di riuscire a leggere tutto, e considerazioni femministe sulla guerra. Allora, lo stimolo diciamo è venuto dalle dichiarazioni di Rosy Braidotti, femminista e insomma diciamo notabile del a Utrecht del Dipartimento di Studi di Genere, e che si è espressa insomma praticamente a favore del criminale aumento delle spese militari, assumendo quindi un posizionamento guerrafondaio e neoliberista. Allora, la Braidotti ha fatto queste esternazioni nel programma 8:30 della 7, programma di Lilli Gruber. Quindi se volete andare a sentire le sue parole in diretta, insomma, per capire che non mi invento io, potete andare insomma, online, ci sono queste cose. Allora, praticamente la Braidotti dice: sono come tutti contro la guerra, ma questo fatto non la elimina. E poi dice: da nord, appunto dal Paesi Bassi, dall'Olanda, la posizione italiana ci turba. I pragmatici olandesi dicono: peccato che non abbiamo più armi da darvi. E poi la Braidotti sostiene che sia una posizione cinica quella di chi dice sì a cibo e medicinali ma no alle armi, e poi parla di riarmo un po' selettivo. Non stiamo parlando di diventare guerrafondai, ma di difendere. Vabbè, questo quindi è il tenore diciamo della posizione, ripeto, guerrafondaia e neoliberista di Rosy Braidotti. Allora, in realtà questa famosa femminista si era espressa, che poi diciamo che è stata anche apprezzata da noi negli anni, quando scriveva appunto degli organi senza corpo, criticando lo spezzettamento diciamo del corpo femminile, della sessualità femminile, il suo esproprio da parte delle tecnoscienze. Ma quei tempi sono passati e la Braidotti è addirittura approdata a lidi transumanisti, quindi le cose sono molto cambiate. E appunto emerge però che questa posizione del 2022 non è nuova, e cioè viene fuori che già nel 1999 la Rosi Peridotti aveva detto avremmo dovuto cominciare a bombardare, relativamente ai bombardamenti della NATO sulla Serbia, avremmo dovuto cominciare a bombardare 8 anni fa. E ecco, questa, diciamo, questo punto di partenza è stato uno stimolo per riprendere un articolo di Nicoletta Poidimani, un articolo che è di quegli anni lì, 99-2000, che si intitola Riflessioni su sorella Atena e alcune demistificazioni necessarie. La compagna aveva scritto proprio questo contributo proprio per affrontare, diciamo, il rospo di questi posizionamenti femministi insomma, molto discutibili e preoccupanti, che si erano già manifestati in quegli anni. E quindi l'articolo parla, è molto collocato in quegli anni lì, e nello specifico del conflitto balcanico di quegli anni, però i ragionamenti stanno in piedi perfettamente anche oggi, anzi sono molto calzanti. Inoltre io volevo intersecare gli scritti di Nicoletta Poidimani su questo argomento con alcuni contributi che sono comparsi su un libretto, anche quello pubblicato nel 99, ma che ha scritti degli anni 93, 92, 93, 94, quindi proprio in piena guerra dell'ex Jugoslavia, scritti di una filosofa che si chiama Rada Ivekovic, che è una filosofa appunto che ha sempre vissuto a Zagabria, però che poi è diventata esule appunto in concomitanza con la guerra, è diventata esule, si è trasferita in Francia, e questo libro si chiama La balcanizzazione della ragione, è appunto un insieme, diciamo, una raccolta di articoli pubblicato nel 99 da Manifesto Libri. Rada Ivekovic è una donna del 1945, quindi di una certa età, e lei dice che di questo libretto dice che i testi qui raccolti pubblicati nel corso degli anni della guerra jugoslava contemporanea registrano le tribolazioni nella riflessione di un soggetto coinvolto, non quelle di una specialista della questione jugoslava. Quindi Rada Ivekovic si parte da sé, diciamo, anche lei parte da sé per parlare di queste faccende. Ma iniziamo da così, leggendo le riflessioni su sorella Atena e alcune demistificazioni necessarie di Nicoletta Poidimani. Durante i bombardamenti NATO sulla Jugoslavia nella primavera del 99 si è assistito ad un fenomeno a mio parere nuovo e che mi ha profondamente sconcertata. Mi riferisco all'appoggio di non poche femministe a quei bombardamenti. Superata la prima reazione di stupore e indignazione nei confronti di questa mortifera novità, cercare di comprendere le ragioni che stanno alla base di quell'appoggio mi sembra ora necessario e urgente. Analizzando quali processi possano aver condotto delle donne che si definiscono femministe ad appoggiare la logica patriarcale di dominio e violenza che sostiene la necessità della guerra, vorrei anche mettere a fuoco quali percorsi possibili di autonomia delle donne. Il mio interesse su tale questione nasce da diversi fattori, quali in particolare la mia partecipazione alla politica delle donne al di fuori delle istituzioni e la mia coscienza antimilitarista e antiimperialista. Da questo mio percorso politico leggo l'appoggio di alcune donne nei confronti dei bombardamenti NATO come il lato ambiguo di taluni femminismi. Lato ambiguo che è anche il segno profondo della difficoltà di liberarsi dai discorsi mistificatori di cui la cultura in cui viviamo è portatrice e riproduttrice. Sì. presupposto da cui parto è quello degli effetti collaterali della massiccia entrata delle donne nelle istituzioni e della conseguente spartizione del potere col maschile. A tale riguardo ritengo innanzitutto che sia tuttora vivo il pericolo di riprodurre la scissione tra pubblico e privato. Dopo essere state casalinghe, ora ci viene richiesto di essere cosmolinghe, ossia di prenderci cura non più solo dello spazio privato, ma anche di quello pubblico, senza però mettere radicalmente in discussione le forme politiche che organizzano lo spazio pubblico stesso. La mistificazione dell'universale. La presa di parola delle donne ha messo in luce sia il fatto che le donne venissero parlate e definite a partire da un corpo, quello maschile, che cancellava la nostra specificità, sia che l'assunto secondo cui il sesso biologico sarebbe la vera ragione della differenza nascondeva in realtà una differenza di potere e di possibilità. Da questo punto di vista, la paura dello stupro mi sembra essere l'elemento che sancisce sul piano materiale questa differenza. Trasmessa culturalmente, essa si inscrive nei corpi delle donne come elemento indelebile e ne condiziona lo spazio di agibilità. Definirei la paura dello stupro come effetto della cultura dello stupro con cui il patriarcato ha sancito e controlla la differenza fra i due generi sessuati. D'altronde, la distinzione fra sesso e genere, che ha attraversato e tuttora attraversa come premessa irrinunciabile la riflessione femminista, ha spostato il fulcro della differenza da una presunta naturalità ad un prodotto storico e culturale, a partire dalla differenza incarnata in corpi di donne. Questa riflessione permette di fare dell'esperienza un punto di forza per la trasformazione. Questo processo di denaturalizzazione di un dato socialmente prodotto richiama alla mia memoria un altro cambiamento rivoluzionario introdotto da Rousseau a proposito della proprietà privata. Fino a quel momento teorizzata come naturale e dunque irrinunciabile, la proprietà privata nell'opera di Rousseau, in particolare nel discorso sulle origini della disuguaglianza, viene storicizzata. Ne viene stabilito l'inizio, il momento in cui qualcuno per la prima volta ha piantato un paletto per circoscrivere un terreno dicendo «questo è mio». Questa affermazione di Rousseau, ponendo l'inizio della proprietà privata, ne pone anche la possibilità della fine. Per arrivare a denaturalizzare la differenza di potere che si sovrappone a quella sessuale e produce i due generi. In questo processo, caratteristiche e disvalori considerati femminili hanno rivelato la loro ideologica radice patriarcale. Questo esito è stato raggiunto anche attraverso la pratica dell'autocoscienza, che ha permesso di partire da sé e dal proprio vissuto per riconoscere in esso il prodotto sia del dominio patriarcale che della tacita e spesso spaventata complicità delle donne con quel dominio. La scissione tra pubblico e privato si è così rivelata essere l'aspetto politico della scissione dell'umano in due sessi contrapposti, di cui uno, il femminile, aveva il ruolo di fare da sfondo all'altro, raccogliendo in sé tutte le mancanze e i limiti da cui il sesso dominante doveva purificarsi per potersi eleggere ad universale. Nella società capitalistica ai due sessi vengono attribuiti ruoli netti e distinti, quello produttivo e quello riproduttivo, e a chi appartiene al gruppo produttivo verrà riconosciuto il diritto di partecipare alla vita politica, mentre chi è relegato nella funzione riproduttiva sarà relegata anche nella dimensione del privato. La democrazia borghese si fonda su questa scissione. Nell'attuale processo di globalizzazione capitalistica, la funzione del modello unico di sviluppo, che colgo dalla mia prospettiva femminista, ripropone quella dell'universale che per secoli ha dominato il pensiero europeo, un universale eletto a unico soggetto del sapere, che ha svolto un ruolo profondamente normativo nello sviluppo della riflessione. Dopo l'incontro dei movimenti delle donne con altri movimenti minoritari, quelli gay e lesbici e i movimenti dei neri, questo universale può essere definito con più precisione, può essere aggiornato per individuarne le caratteristiche e le modalità d'azione. Ed ecco che esso si rivela essere non un generico uomo, bensì maschio, bianco, di classe media, eterosessuale, adulto, produttivo, abile. Continuiamo con la lettura di questo testo della Nicoletta Poidimani, riflessioni su sorella Atena e alcune demistificazioni necessarie. La mistificazione dualistica. Le alterità che fanno da sfondo al predominio di questo universale raccolgono in sé tutto ciò e chi è ritenuto difettoso e mancante, prodotto inevitabile di un pensiero fondato sulla rappresentazione dualistica della realtà. Ciò si è anche visto durante i 2 mesi di bombardamenti NATO contro la Jugoslavia, dove la complessità e pluralità etnica presente in quel territorio è stata ridotta ad una contrapposizione tra serbi e kosovari albanesi, riduzione utile a definire l'identità del nemico da annientare e funzionale a riprodurre un'altra contrapposizione, quella guerrafondaia tra buoni e cattivi, dove chi si autodefinisce buono, perché salvatore di un'umanità sofferente, legittima il proprio disseminare morte e miseria. E legittima anche il disconoscimento dell'attuale pulizia etnica, riducendo allo status di clandestini i nuovi profughi, che sono al di fuori di quella utilissima rappresentazione duale tra buoni e cattivi. Questo meccanismo di produzione e rappresentazione dell'alterità mostra chiaramente che ci troviamo di fronte ad una sorta di equivalente generale che definisce il valore delle diverse singolarità e per fare ciò le rende oggetti, oggetti da disciplinare perché incarnati in corpi viventi che generano instabilità e non governabilità anche nel mettere in luce i limiti dell'universale stesso. Le pratiche disciplinari che si producono da questo processo sono a mio parere rinvenibili in quei processi di inclusione e esclusione che caratterizzano oggi la gestione del politico. Su ciò ritengo ci si debba interrogare a partire dalle nostre soggettività di donne per cercare di delineare collettivamente nuove prospettive di cittadinanza che non siano più fondate su quell'universale e sui processi di colonizzazione interna, psichiatria, gestione dell'immigrazione, carcere, eccetera, ed esterna che esso mette in atto. Un mutamento di prospettiva che ci permetta di realizzare spazi condivisibili richiede anche che si eviti di riprodurre la logica dualistica maggiore e minore, che è alla base della guerra e delle colonizzazioni. Questa dualità, infatti, ci imprigiona in una logica contrappositiva che legittima e riproduce il predominio dell'universale. Viviamo in un continuo stato di belligeranza che alimenta il potere di quell'universale. Sono dell'idea che anche il nostro silenzio su questa condizione quotidiana abbia creato lo spazio per l'espressione di posizioni guerrafondaie all'interno del femminismo. Mi sembra grave che davvero poche fra noi abbiano avuto il coraggio di mostrare alle guerrafondaie le ragioni reali della loro presa di posizione durante i bombardamenti contro la Jugoslavia. E ancor più preoccupante, e cosa ancora più preoccupante, successivamente non se n'è mai più voluto discutere pubblicamente, come se si fosse trattato di una insignificante parentesi, come se finita quella fase si fosse dissolta per incanto ogni contraddizione e tutte le lacerazioni fossero state ricucite. Ma lo stato di belligeranza permane e da quei bombardamenti il patriarcato capitalista ne è uscito più forte che mai, avendo anche conquistato una schiera di fiancheggiatrici. Take this job and shove it! I ain't working it no more! I would have been all the people I was looking for. You see that guy came away and walked out the door. Take this job and shove it! I wouldn't hear no more. Take this job and shove it! I ain't working it no more! I would have been all the people I was looking for. You see that guy came away and walked out the door. Take this job and shove it! I wouldn't hear no more. Volevo dire, mentre stiamo ascoltando i Dead Kennedys, band californiana in sottofondo, prima Durante l'intervento abbiamo ascoltato i Flux of Pink Indians, band anarcho-punk inglese, dal loro album datato 1982, band particolare che ha avuto un periodo di 4 anni di attività e in quei 4 anni ha fatto 3 album, di cui ogni album cambiava il genere musicale e ovviamente il primo che abbiamo ascoltato era decisamente anarcho-punk. E poi, scusate, abbiamo ascoltato un brano di una band australiana, le Cold Meat. Torniamo comunque ai Dead Kennedys. Sì, e proseguiamo con la lettura di alcune parti di questo articolo Riflessioni su Sorella Atena e alcune demistificazioni necessarie di Nicoletta e poi di Mani. Poi vi invito ad andare a leggere, insomma, l'articolo nella sua totalità sul sito di Nicoletta e poi di Mani, perché chiaramente è molto lungo e articolato, insomma in radio non si riesce a leggerlo tutto. Ma comunque continuiamo con la mistificazione postmodernista. Ci dice Nicoletta Poidimani, un punto di partenza secondo me irrinunciabile è la riconfigurazione delle pratiche di posizionamento ormai assunte come metodologia da buona parte del femminismo, in particolare quello accademico. Dai saperi situati con cui Donna Haraway nel 91 ha prodotto un modello di sapere alternativo al neutro universale dominante, è derivata la pratica di collocarsi, ossia di dichiarare la posizione da cui si fanno le enunciazioni, al fine di evitare analisi fondate su affermazioni universalizzanti. Atto politico questo, che considero davvero importante. Ma al contempo vorrei mettere in luce come il pensiero cosiddetto postmoderno, in cui Haraway stessa si colloca, con la sua dichiarazione della frammentazione dei soggetti, porti con sé potenzialmente il gioco di potersi collocare in posizioni deresponsabilizzanti, con il rischio di legittimare pratiche di cannibalizzazione delle identità svantaggiate, anziché utilizzare le politiche di posizionamento per mettere in discussione i privilegi di cui si è portatrici e riproduttrici. In sostanza, l'ideologia postmoderna della fine della storia, a mio parere pericolosissima, fa sì che non ci si debba più definire come prodotti storici strettamente legati a pratiche sociali generate dal modo di produzione dominante e o dall'opposizione ad esso, ma fluttuantemente immerse solo in un presente astoricizzato. Credo che per rompere con queste mistificazioni e cannibalismi sia molto utile adottare un altro tipo di posizionamento, cioè un posizionamento rispetto alla circolazione e all'accumulazione del capitale, il che significa non solo salvaguardarsi dall'ideologia della fine della storia e anche della fine dell'azione della storia, ma anche aggiornare lo strumento del materialismo storico in un materialismo storico geografico, utile a rileggere l'attuale conflitto di classe, sesso e razza nel quadro della globalizzazione capitalistica e delle nuove ingiustizie che essa porta con sé a livello planetario. Vorrei allora sottoscrivere pienamente le osservazioni di Samir Amin, che nell'analizzare le fiabe del capitale pone tra queste fiabe anche quella postmoderna della fine della storia, che indurrebbe a credere nella legittimità e addirittura nell'eternità del capitalismo, dunque nell'inutilità di qualunque tentativo di prospettare alternative praticabili. Con questa lettura il postmodernismo non sarebbe che una utopia neoliberale mascherata. E l'opzione postmoderna, in fin dei conti, quella del nichilismo autodistruttore. Poi Nicoletta Poidimane continua con la mistificazione, con un altro paragrafetto, la mistificazione della sorellanza, e poi arriva a delle conclusioni, anzi a un inizio. E ci dice: mi rendo conto pienamente di aver buttato tanta carne al fuoco, ma non posso più esimermi dall'analizzare le tacite connivenze di certi femminismi con il capitale e con le sue guerre. Non posso, sia per formazione politica personale, sia perché l'incontro col pensiero e la pratica di donne non occidentali ha lasciato in me tracce profonde. La critica di whiteness, ossia del privilegio bianco, anche nel suo riproporsi in veste femminista, non è più rinviabile. Si tratta di assumersi delle responsabilità in modo critico. Si tratta di mettere in luce tanto le responsabilità del patriarcato capitalista bianco, quanto le nostre complicità con esso. E ciò mi sembra tanto più urgente oggi. E parliamo del 1999, anno in cui è stato scritto questo articolo, a pochi mesi di distanza dai bombardamenti NATO sulla Jugoslavia, che a differenza di tutti i precedenti atti di guerra hanno avuto il sostegno e la giustificazione di non poche femministe. E nessuna di queste femministe ha espresso uno sguardo critico sull'uso mass mediatico delle donne kosovare stuprate a sostegno del patriarcato guerrafondaio e sul silenzio riguardo alle altre donne stuprate, serbe, rom e tutte quelle di seconda categoria. Nessuna di loro è parsa ricordare che la guerra porta con sé immancabilmente lo stupro, qualunque guerra, anche quella che si dichiara umanitaria, così come da sempre nelle guerre le donne sono il premio per i vincitori, e ben poche di queste femministe, filo bombardamenti, si sono poi date da fare concretamente per sostenere le vecchie e le nuove profughe. E soprattutto, finita la fase più evidente della guerra, nessuna di loro si sta chiedendo, almeno pubblicamente, cosa ne sia stato delle donne che per essere salvate sono state deportate e messe in mano ai soldati umanitari, questa volta nei campi profughi sparsi per l'Europa. Una profonda lacerazione ci accompagna. Credo davvero che ormai non sia più possibile rimandare. Quando penso alla lunga storia e vita del dominio patriarcale, suprematista, capitalista e bianco, e penso a quanto hanno determinato i movimenti sociali degli ultimi decenni nel denaturalizzare il privilegio di chi appartiene a quel dominio, mi sembra di intravedere possibilità concrete di trasformazione. Sta a noi la scelta tra l'essere cosmolinghe e quindi continuare a tenere in ordine la casa universo del maschio suprematista bianco, magari brontolando un po' ogni tanto per qualche rivendicazione, e il cercare invece politiche di alleanze minoritarie che ci permettano di uscire dalla dimensione, anche simbolica, del privato, che per le donne si è riprodotta nel pubblico. Proviamo ad usare le nostre esperienze per trasformare l'esistente in direzione di pensieri e pratiche plurali che siano anche in grado di produrre demistificazioni. E continuando come in una cavalcata in questa lettura, passiamo da appunto questo articolo di Nicoletta Poidimani, riflessioni su sorella Atena e alcune demistificazioni necessarie, che partiva appunto dalla riflessione sull'adesione da parte di alcune femministe ai bombardamenti NATO sulla Serbia, ma che possiamo trasportare al giorno d'oggi, 2022, sull'appoggio alla, all'aumento delle spese per gli armamenti e all'invio di armi a uno dei due delle due parti, ma comunque alla parte ucraina del conflitto in atto attualmente. E passiamo appunto a un altro contributo, che è quello di Rada Ivekovic, che si intitola Le donne, il nazionalismo e la guerra. Si tratta di un articolo che lei ha scritto, aspettate che vi dico, ecco, tra il dicembre 92 e il gennaio 93, a proposito di adattamento al dominio. Ci dice Rada Ivekovic: il movimento inglese delle suffragette si interruppe bruscamente quando una contraddizione divenne storicamente rilevante, quella che può essere riassunta nella frase «le donne come membri della specie umana e come espressione della differenza e della singolarità». Questa contraddizione si è manifestata con l'avvento della Prima Guerra Mondiale, quando le suffragette divennero operaie nelle fabbriche e furono liberate dalle prigioni come ricompensa per la loro tendenza patriottica e per l'abbandono dell'attività femminista e della lotta per il diritto di voto alle donne. Più tardi verrà riconosciuto il diritto di voto alle donne in gran parte come premio per il loro comportamento durante la guerra. La guerra e il nazionalismo furono usati come argomenti per allontanare dal femminismo, nel senso che si chiese alle donne di scegliere tra il femminismo e lo sforzo richiesto dalla guerra, tra la loro identità femminile e la loro identità nazionale e di Stato. E questo divise il movimento femminista. Si verificò una rottura tra le donne che mantenevano le loro posizioni antimilitariste e pacifiste e quelle che volevano sostenere gli uomini e lavoravano nelle industrie di armi e guidavano le ambulanze al fronte. Sarebbe semplicistico affermare che gli uomini erano tutti a favore della guerra e le donne tutte per la pace, ma gli interessi dichiarati di una guerra sono sempre determinati dal genere dominante, perché il sistema del genere dominante viene reso totale e conseguentemente considerato come neutro dal punto di vista dei generi, come universale umano. La sua stessa supposta neutralità ne costituisce la forza. Anche se le donne usano ricorrere alle armi molto meno degli uomini, esse sono comunque, in una certa misura, anche quando inconsciamente, complici della guerra, perché il sistema in quanto tale è determinato dal gruppo dominante. È necessario analizzare il carattere complementare di ciò che è simbolicamente in gioco nella macchina militare per gli uomini, per le donne e per entrambi allo stesso tempo, perché il genere è, senza dubbio, un principio essenziale dell'organizzazione della macchina militare. È questa la ragione per la quale possiamo dire che il sistema politico e simbolico è maschile, volendo intendere che il genere storicamente dominante è quello maschile, e non nel senso che la colpa o la responsabilità di ciò ricada su ogni uomo in particolare o sulla sua mascolinità in quanto tale. Il genere è anche il principio organizzatore delle relazioni di potere nella società e dunque il principio organizzatore basilare della società anche in ciò che essa ha di estremo, il nazionalismo e la guerra, dato che il nazionalismo radicale sembra alla fine del XX secolo condurre naturalmente alla guerra. La storia continua a essere dalla parte di coloro che sono dominanti dal punto di vista del genere, politico, eccetera, in quanto gruppo, perfino quando questi desiderano liberarsi del loro potere e fanno chiaramente degli sforzi in questo senso. La sola volontà di abbandonare dei privilegi posseduti storicamente non è sufficiente a permettere di disfarsene in modo radicale. Questi privilegi sono attaccati al gruppo dominante come un karma, perché il presente deriva dal passato. È anche un po' inutile la preoccupazione per il pericolo insito nel ricorso ad un essenzialismo di tipo opposto, quando si descrive la situazione sociale e storica dei più deboli, semplicemente perché questi, nel rovesciamento dell'insieme delle istituzioni, non saranno sostenuti da una storia globale che sia la loro propria storia. Let's go. continua Rada Ivekovic sul modello di pensiero binario. Consideriamo adesso più precisamente il ruolo dei modelli di pensiero binari rispetto al nazionalismo e alla guerra. Non sono io la sola a ritenere che nel pensiero binario sono particolarmente evidenti due elementi tra loro collegati. Innanzitutto, il modo di pensare binario nasconde, dietro una simmetria di principio apparente, una struttura asimmetrica. Infatti, uno dei termini della simmetria è subordinato e l'altro dominante. Tra questi non esiste dunque un vero parallelismo. In secondo luogo, il termine subordinato è automaticamente pensato come femminile imperfetto e il termine dominante come maschile e perfetto. Una tale rappresentazione precede la riflessione, è inerente al pensiero occidentale stesso, è qualcosa che si verifica automaticamente, a meno che non venga specificamente interrogato l'inconscio. Tale modo di pensare binario è stato mantenuto, coltivato e sviluppato nella nostra tradizione intellettuale fino al punto di divenirne parte integrante. Esso si realizza anche nelle opposizioni che vengono espresse dal nazionalismo e nelle guerre. In uno studio di notevole interesse, Barbara Freeman cita il pensiero di Eleni Skerry. La guerra rappresenta un confronto nel quale i partecipanti si dividono in due campi opposti e intraprendono un'azione che ha come scopo finale di designare una delle parti come vincitrice e l'altra come vinta. Nel momento in cui decidono di entrare in guerra, i partecipanti accettano di entrare in un rapporto di dualità autodistruttiva. Una relazione formale duale che, nella stessa potenza della sua implacabile affermazione della dualità, trova il mezzo per la propria autoeliminazione e per essere sostituita con le condizioni della singolarità. In questo, un primo momento maggiormente significativo è nell'entrata in guerra, il passaggio dalla situazione di molteplicità alla situazione di dualità. Un secondo momento è alla fine della guerra, il passaggio dalla situazione di dualità a quella di nuovo di unicità. E per concludere qui a Zardins Magnetics in diretta questa escursione nelle riflessioni femministe sulla guerra, e concludo appunto con questa ultima riflessione di Rada Ivekovic su nazione, stato come donna, cioè come la rappresentazione della nazione, o meglio dello Stato, come una donna. Che la nazione, in realtà lo Stato, venga spesso identificata con una figura femminile è un fatto che non ci deve stupire. Spesso le figure femminili incarnano ed esprimono simbolicamente l'ideale, come nel caso della madre patria e nelle antiche religioni della divinità femminile locale. Ma il fatto che la donna incarni degli ideali al fine di giustificarli non significa che ciò che viene in questo modo incarnato, il principio o il meccanismo rappresentato, sia femminile. Occorre distinguere tra chi è il rappresentante di un certo ideale e l'ideale rappresentato. La personificazione femminile di grandi ideali come libertà, nazione, saggezza, madre patria, purezza, eccetera, è frequentemente usata come pretesto per escludere le donne da ciò che realmente è in gioco. E questo vale tanto per le mitologie tradizionali che per la politica dell'epoca contemporanea. Le pretese raffigurazioni femminili di queste grandi idee maschili non hanno niente a che vedere con qualsiasi cosa riguardi l'esperienza di vita quotidiana femminile. Questi principi femminili funzionano in una relazione di potere e dominazione in favore di una struttura che nel complesso non è altro che l'estensione globale del ruolo socialmente forte. Non bisogna credere troppo all'idea, qualche volta ripresa da alcune femministe, che la nazionalità, la nazione che viene aggredita è la donna. Ogni altro stato o nazione può essere simbolicamente rappresentata nel sistema simbolico patriarcale che noi tutti condividiamo come donna. Come ho detto, i grandi ideali sono organizzati in modo tale che una figura femminile incarna sul piano simbolico un'attività o un ideale maschile. Questi non sono la rappresentazione di una realtà propria della donna, ma di una esperienza maschile. Vi è un'eccessiva tendenza a identificare la donna con la vittima. La coppia vittima-aggressore è sì un'opposizione binaria e, come ogni altra opposizione, è in una certa misura simbolicamente sessuata, ma le opposizioni binarie non funzionano tutte nello stesso modo. La guerra tra i sessi non sembra avere le stesse modalità di funzionamento della guerra nazionalista. È per questo motivo che la concezione della nazione aggredita come donna, aggredita da una nazione vicina uomo, è erronea, sebbene lo stupro sia un fenomeno abituale delle guerre. Certamente vi è la guerra tra i sessi, ma questa guerra si svolge all'interno di una nazione o nazionalità e non primariamente fra due diversi gruppi nazionali, sebbene la guerra tra i sessi sia particolarmente manifesta nelle atrocità della guerra tra nazioni. E in generale la guerra tra i sessi è una guerra nella guerra, ma non una guerra parallela, nella quale ogni segmento della guerra nazionale troverebbe un suo corrispondente nella guerra tra i sessi. Il fenomeno è ancora più complesso, perché le donne sono complici a tutti i livelli, sia nella parte più visibile che in quella più occulta della guerra, che esse vi collaborino attivamente o meno. L'insieme del sistema, la macchina militare, è una struttura estremamente vasta e onnicomprensiva, e se viene messa in moto molto tempo prima che le parti arrivino alle armi. Vabbè, e anche chiaramente queste idee, insomma, queste affermazioni di Rada Ivekovic vanno approfondite, si possono approfondire consultando il libro da cui sono le ho tratte, che è La balcanizzazione della ragione, edizione Manifesto Libri, pubblicata nel 1999, non so se ancora in commercio, comunque in biblioteca si trova, adesso che si può andare in biblioteca senza Green Pass. E vabbè, io direi, l'ho fatta lunga, ascoltiamo un pezzo di musica e poi concludo con Per chi sente il ticchettio. Should be living a different life. Who's gonna take you home tonight? Who's gonna take you home? Who's gonna take you home tonight? Who's gonna take you home? Who's gonna take you home tonight? Who's gonna take you home? Does God bless your transsexual heart? True trans or rebel? True trans or rebel? Sì, mi ero ripromessa di dare spazio, maggior spazio anche a appunto questi contributi dell'assemblea pubblica per chi sente il ticchettio di Catania, e però purtroppo il tempo insomma è quasi finito, niente, quindi vi leggerò solamente una piccola parte del contributo, e vi invito comunque ad andare a consultare il rovescio .info, dove trovate un sacco di materiali super interessanti e puntuali sull'antimilitarismo nello specifico, visto che abbiamo parlato di questo oggi. Allora, ci dicono i compagni di catanesi, per chi sente il ticchettio, la guerra è sempre stata qui. La guerra, ogni guerra, investe in maniera totale ogni aspetto delle società, in quanto strumento principale di risoluzione delle crisi in mano alle classi dominanti. Il sistema della guerra è tanto più forte quanto più deboli sono le lotte degli oppressi e delle oppresse. In questo senso, tra gestione militare della pandemia e gli orrori attuali, non c'è discontinuità, ma un salto di qualità nei volumi di violenza effettiva e potenziale. È negli scenari bellici che la violenza industriale degli stati si può dispiegare pienamente, sventolando non a caso la minaccia tecno-industriale per eccellenza, la tecnologia nucleare. Con la sua propaganda semplicista, polarizzata ed emergenziale, ben rodata negli ultimi anni di pandemia, il lessico militare sta plasmando a poco una forma mentis di massa che vira pericolosamente verso la tifoseria nazionalista, con il suo portato intrinseco di machismo, razzismo, xenofobia, declassamento di ogni cosa alle priorità del capitale. Ma sentiamo, almeno come possibile, squarciare il velo di menzogna, la ripresa di una ostilità multiforme verso la logica assassina del profitto e degli sfruttatori. L'avanzamento di una coscienza di classe e di specie che sappia individuare i suoi nemici. Questa possibilità, che per noi è una necessità impellente, può scaturire solo dall'azione, dalle lotte, dall'echeggiare di parole chiare sui responsabili dei disastri, dal mutare dei rapporti di forza. La guerra è sempre stata tra noi, anche quando la scorgevamo da più lontano. Le sue filiali sono concretamente nei luoghi in cui viviamo. Non solo basi militari, fabbriche di armi, multinazionali energetiche, ma anche imprese tecnologiche, strumenti per la sorveglianza, banche, partiti politici, supermercati, università. Tra queste Leonardo Finmeccanica, Beretta, Intesa San Paolo, Unicredit, Assicurazioni Generali, Eni, Enel, Terna, Benetton, e la lista potrebbe continuare. Consapevoli di muoverci al riparo dalle bombe, vogliamo però fare di questa alterità un tassello delle lotte, in una prospettiva internazionalista, finché siamo in tempo, per chi come noi vive in una regione, la Sicilia, che è una piattaforma militare. Il rifiuto delle guerre degli stati oggi non muove solo da una tensione etica, ma anche da un istinto di autoprotezione individuale e collettiva. E vabbè, vale la pena anche di ricordare alcune cose, cioè di ricordare che i ferrovieri greci bloccano gli armamenti, sono notizie di questi ultimi giorni della NATO, quelli bielorussi rifornimenti dell'esercito russo, e che anche i ferrovieri tedeschi si stanno organizzando contro le consegne delle armi. Poi ricordiamo c'è stato praticamente un blocco, un boicottaggio, insomma, un blocco nell'aeroporto civile di Pisa da parte del personale, insomma, e delle armi nascoste su un volo classificato come aiuti umanitari, e i portuali di Genova hanno invece bloccato una fornitura militare diretta in Yemen. Allora, è notizia di oggi, sempre dal rovescio, che il sindacato di base USB c'è stata una perquisizione da parte dei carabinieri nella sede di Roma alla ricerca di armi. Chiaramente era una, cioè, vabbè, comunque se volete andate a leggere, ci sono le notizie su Il Rovescio. Comunque questa perquisizione è dovuta al fatto che questo sindacato in queste due situazioni, sia a Pisa che a Genova, ha sostenuto la presa di posizione contro la guerra, contro gli armamenti dei lavoratori. E da questo punto di vista ci sarà anche una manifestazione il 22 aprile contro guerra, caro vita e finanziamento degli armamenti. Ecco, e quindi questo come cosa, diciamo, iniziative di lotta. Poi appunto ci saranno tantissime manifestazioni antimilitariste nei prossimi giorni. E concludo, prima di darvi i contatti, con un abominio, perché insomma, per lasciarci così, che oggi, che è il 7 aprile, è stato approvato al Senato in Italia il DDL che istituisce la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, che era già stato approvato questo provvedimento alla Camera il 25 giugno del 2019. Il provvedimento ora è legge, è passato al Senato ed è legge. Ci sono stati, giusto per sapere, perché è importante sapere anche questo, 189 voti a favore, nessun contrario e un astenuto. La giornata che celebrerà questa memoria e sacrificio degli alpini è stata stabilita nel 26 gennaio. Il ricordo ci si rifà per questa data al 26 gennaio 1943, la battaglia di Nikolajevka, e viene ricordato l'eroismo dimostrato dal corpo d'armata, però l'eroismo nel feroce scontro tra le incalzanti truppe sovietiche e le forze residue dell'asse. Però vale la pena di ricordare, è abbastanza intuitivo visto che era il 43, ma diciamolo, che gli alpini e i nazisti, cioè i fascisti e i nazisti, erano presenti a Nikolajevka come occupanti e che le forze, le incalzanti truppe sovietiche, come le definisce l'ANA, liberavano la loro terra dai nazifascisti. Ecco, quindi adesso in Italia, nella democratica Italia, si istituisce una giornata della memoria del sacrificio degli alpini, proprio ricordando una battaglia dell'asse nazifascista occupante. Complimenti. E d'altro canto non ci si poteva aspettare d'altro dai corpi d'armata. Bene, quasi allo scoccare delle 9 e delle 21:30, anzi alle 21:32, prima di salutarvi vi do i nostri contatti. Intanto potete riascoltare questa puntata e tutte le altre nel blog zardingsmagneticsradio.noblogs.org. Poi, se volete entrare in contatto con l'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, potete farlo attraverso la mail liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo in forma cartacea alla Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Per stasera è tutto, alla prossima. Ciao ciao. Okay, bitch, get the fuck off me. I'm breaking the back. music of tomorrow is here. Right now. Here it goes. Calling, calling. On the frontier of delusion, I'm your foremost frontier man. When they mistook you for beauty, they were eventually faced by a miserable clown. Still I